verso il futuro e oltre. Scuola, università, ITS. Dove e come prepararsi alle sfide di domani. Di Maria Piera Ceci. Il messaggio che arriva da tutti gli insegnanti è quello che di momenti ne abbiamo sicuramente vissuti di migliori, ma che per la scuola quello che stiamo vivendo è un momento che propone delle sfide da cui usciranno scuole migliori quando tutto questo sarà finito, e speriamo che sia prima possibile. Proseguiamo infatti la nostra serie di puntate dedicate alle scuole più innovative, che non si sono fatte fermare dal coronavirus, ma che tutt'altro hanno raccolto la sfida della scuola a distanza. Questa settimana poi il governo ci ha anche messo i soldi in arrivo per le scuole, 8,2 milioni di euro per potenziare appunto la didattica a distanza. Ogni scuola riceverà un contributo di 1000 euro che potrà essere utilizzato per la formazione dei docenti, anche online, su modalità didattiche innovative. L'animatore digitale, figura strategica per la diffusione dell'innovazione a scuola introdotta nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, grazie a queste risorse potrà promuovere fra i colleghi la conoscenza di nuove metodologie didattiche, sperimentare insieme agli altri insegnanti forme di insegnamento a distanza e coinvolgere l'intera comunità scolastica. E noi un animatore digitale lo abbiamo conosciuto la scorsa settimana, Carlo Mazzone, il finalista di quest'anno del Global Teacher Prize. Ma proseguiamo il nostro tour fra le scuole innovative. Oggi siamo ad Ancona, all'Istituto Superiore Savoia Benincasa, liceo scientifico, liceo linguistico ed istituto tecnico economico e del turismo. I ragazzi qui lavorano normalmente su robotica e realtà virtuale. In classe si spostano con banchi dotati di rotelle che consentono loro di muoversi liberamente. La didattica si ispira a metodologie apprese ad Harvard e al MIT di Boston. E in questi giorni di stop alle scuole, via a lavagne in condivisione, documenti scaricabili sulla piattaforma gratuita, esercizi collaborativi. Gli insegnanti del Savoia Benincasa stanno procedendo con la didattica quasi come se nulla fosse, perdendo solo un risicato 10% delle ore previste dal calendario scolastico normale. E che proprio per condividere le proprie competenze, per rinsaldare il legame fra tutta la comunità scolastica, il Savoia Benincasa, insieme alle altre scuole scelte come avanguardie educative, si tratta di 27 scuole in tutta Italia, ha lanciato un manifesto, come ci racconta la dirigente scolastica Alessandra Rucci. È un manifesto che è stato scritto nel cuore della notte tra il giorno 5 e il giorno 6, quindi è proprio una creatura dal basso che è nata da un'emergenza, da un bisogno che abbiamo provato in questi giorni di incertezza. Il manifesto è il manifesto della scuola che non si ferma e vuole essere una grande spinta di energia per tutte le scuole d'Italia in questo momento. Si articola intorno ad alcune parole chiave, sono delle parole molto belle: crescita, perché la scuola è il luogo della crescita e l'emergenza in questo momento ci sta facendo crescere tutti e imparare cose nuove; comunità, perché è indispensabile e fondamentale in questo momento di distanza sociale ritrovare il senso della comunità nelle forme in cui riusciamo a ricostruirla; responsabilità, perché naturalmente anche la didattica a distanza richiama nuove forme di responsabilità per gli studenti e quindi nuove lezioni di senso civico. Sistema, ci siamo accorti che è una parola importantissima, perché questo momento si può fronteggiare soltanto se le azioni di didattica innovative vengono messe a sistema e quindi diventano azioni comuni e non improvvisate. Rete, perché in questo momento il segreto fondamentale per le scuole è proprio fare rete, è darsi la mano, è gemellarsi, è cercare aiuto da chi ha maggiore esperienza, e da ultimo innovazione, perché tutto questo frangente ci porta a ripensare profondamente il nostro modo di fare scuola e quindi a capire che innovare è indispensabile. Questo dunque è il manifesto delle avanguardie educative. Qua va ricordato che questo scatto in avanti nella didattica a distanza ha fatto storcere il naso alle organizzazioni sindacali della scuola. Non c'è stata trattativa sindacale, la ministra Azzolina agisce senza consultare le rappresentanze. I sindacati rivendicano un ruolo in questo processo e ricordano che quella della didattica a distanza resta un'iniziativa non obbligatoria per gli insegnanti. Anche se, questo piace a me ricordarlo, in effetti gli insegnanti in questo periodo vengono pagati, quindi in qualche modo sarebbero tenuti a darsi da fare. È un po' come se i medici in questo periodo di emergenza si mettessero a discutere degli orari che fanno. Diciamo che non è proprio il momento di fare discussioni, sicuramente poi quando tutto sarà finito andranno un po' rimesse tutte le pedine a posto. Non è questa però la sede per parlare di questioni sindacali, noi preferiamo continuare a raccontare la nostra bella scuola, ed è davvero una bella scuola l'Istituto Tecnico Enrico Tosi di Busto Arsizio, in provincia di Varese. La sua dirigente scolastica, Amanda Ferrario, è ormai una specie di star in questi giorni sui social. Se ne sta inventando di tutti i colori per la sua scuola e sta anche condividendo le sue esperienze con le altre scuole. Allora sentiamola, Amanda Ferrario. Ok, allora in questi giorni di emergenza abbiamo attivato delle aule virtuali, che significa che siamo partiti dalle piattaforme esistenti. La base può essere il registro elettronico, noi siamo anche su piattaforme diverse, le faccio un esempio, usiamo Teams, che è una piattaforma di realtà aziendale che viene usato tranquillamente a scuola. In queste aule virtuali noi abbiamo il docente, eventualmente il co-docente anche, se ci fosse il conversatore madrelingua insieme al docente per esempio. E poi abbiamo gli studenti, che sono parte della classe oppure dei gruppi interdisciplinari della classe. In queste piattaforme, in questi ambienti di apprendimento, il docente gestisce una lezione in sincrono, quindi c'è il video. Lo studente vede il docente, vede i compagni, il docente vede tutti gli studenti, il video e l'audio vengono attivati anche in base, diciamo, a una sorta di etichetta, non è che parlano tutti quanti insieme, ma questo avviene anche nelle classi normali. All'interno di quest'aula virtuale si fa lezione, per cui il docente carica una lezione, può aver preparato un video, dei materiali, un project work, quello che ritiene di dover fare con i suoi studenti, come farebbe naturalmente a scuola. E in quest'ora di lezione o due ore di lezione, in base al numero delle ore che il docente ha in classe, si svolge una vera e propria lezione, un vero e proprio lavoro per tutto il monte ore delle lezioni. Quindi la scuola comincia alle 8 e finisce alle 5 del pomeriggio, già dal primo giorno in cui c'è stata la sospensione delle attività. Gli studenti lavorano in classe, lavorano tra di loro, lavorano in gruppo, lavorano col docente e poi ovviamente hanno compiti e lezioni come se fosse una lezione tradizionale fatta a scuola, da portare avanti per i giorni a venire. In questi giorni stiamo anche cercando di lavorare per la valutazione, perché dobbiamo valutare anche il lavoro che viene fatto in questo periodo. Una valutazione che... Quindi una valutazione che va avanti, ma una didattica vera e propria che va avanti, sì. Perché altre scuole invece hanno detto, naturalmente teniamo occupati i ragazzi, facciamo fare dei lavori interattivi e quant'altro, però la didattica in realtà si ferma, anche perché non tutti riescono a collegarsi. Voi questo problema non lo avete? No, noi questo problema non l'abbiamo. I nostri studenti lavorano tutti col tablet o col notebook anche a scuola, per cui hanno tutti un dispositivo, se non ce l'hanno loro quando arrivano a scuola, la scuola glielo dà in comodato d'uso per tutta la durata del ciclo scolastico e quindi hanno un collegamento internet, lo stesso vale per i nostri docenti e quindi la modalità di collegamento è una modalità operativa sempre, anche nella didattica tradizionale. Noi abbiamo studenti che vanno spesso in scambio all'estero, che sono fuori in alternanza per più periodi, quindi una modalità di lavoro ovviamente non su 2000 studenti ma su gruppi più ridotti ce l'avevamo già fatta in questo modo. E la didattica va avanti, perché è vero che è nata l'esigenza il primo giorno in cui siamo rimasti a casa tutti dalla sera alla mattina di non lasciare la comunità da sola e quindi di prenderci un po' cura di tutti noi e di fare un servizio anche sociale, però è anche vero che siamo a 10 giorni dall'emergenza, che la scuola comunque è attiva, che i docenti fanno lezione per tutte le 9 ore della durata della giornata scolastica. E quindi è giusto che la didattica vada avanti, che prosegua. Gli insegnanti sono tutti pronti a questo modo di lavorare? Fate formazione? Non potete scegliere gli insegnanti, voi dirigenti scolastici, quindi insomma quelli che arrivano sono tutti in grado di operare in tal modo? E gli insegnanti al Tosi fanno formazione continua, perché il Tosi è una scuola d'avanguardia, una scuola che comunque recepisce anche il cambiamento del mondo che ci circonda. Lavoriamo molto con le imprese, col mondo del lavoro, con Confindustria, con Assi Lombarda, quindi ci serve che i nostri studenti abbiano per esempio all'interno della scuola l'utilizzo delle migliori tecnologie possibili, dei software possibili. Le faccio un esempio: economia aziendale non possiamo farla a mano con la partita doppia ancora come si faceva una volta, utilizziamo software di ultima generazione, Quindi per i nostri docenti non è fondamentale, è obbligatoria la formazione, anche solo moralmente, la facciamo sempre costantemente. È vero, non si possono scegliere i docenti, però c'è il controaltare. In una scuola che chiede tanto e che poi dà anche molto in termini di soddisfazione, si sceglie di venire in questa scuola se si è altamente motivati, non si resiste a lavorare qui se si pensa di fare le 18 ore e andare a casa. Ecco. Si parla tantissimo di insegnanti che si mettono in gioco in questa occasione, si parla pochissimo invece di voi dirigenti scolastici. Come si fa a fare i dirigenti scolastici in questo periodo a distanza e in questa situazione emergenziale, anche grazie alle nuove tecnologie? Intanto il dirigente scolastico a scuola ci va, io ci sono andata sempre fin dal primo giorno, perché sono comunque il responsabile di una struttura, qualunque cosa accada o non accada all'interno, bisogna comunque, diciamo, presidiare. Quando si ha a che fare con un piccolo villaggio, pensi io, 2000 alunni, 200 docenti, i genitori, tutto l'indotto delle aziende, immagini soltanto il volume delle mail o delle telefonate che si ricevono. Quanto è importante la tecnologia in questo momento per lei come dirigente scolastico? Ah, guardi, fondamentale. Se penso che il DPCM di ieri sera è arrivato firmato, che erano 9:30 di sera, e quindi la comunicazione va fatta poi in tempo reale. È vero che a volte è un po' persecutorio, però penso a WhatsApp, ci aiuta moltissimo. In tempo reale abbiamo, diciamo, la normativa, dei suggerimenti da darci, un supporto, mettiamo a disposizione di tutti quelle che sono le nostre competenze. Le altre puntate del nostro viaggio fra le scuole più innovative d'Italia, che in questo momento di emergenza coronavirus stanno tirando fuori il meglio delle loro competenze, le trovate su radio24.it nella sezione podcast. La prossima settimana parleremo dei più giovani, dei bambini delle elementari e di quelli della scuola media, perché anche loro stanno facendo didattica a distanza e anche loro, al pari degli studenti più grandi, hanno bisogno di sentirsi parte della comunità scolastica, ma con delle specificità che ci racconteranno alcuni professori davvero speciali. E prima di chiudere voglio raccontarvi di una bella novità che ci riguarda e che si rivolge proprio a quegli insegnanti, a quei dirigenti appassionati di cui ogni settimana parliamo qui a Verso il Futuro e Oltre. È partita l'iniziativa Radio 24 per la scuola. Sul sito radio24.it a disposizione podcast tratti dai nostri migliori programmi da utilizzare nella didattica a distanza. Qualche esempio? Ebbene, sarà possibile passeggiare nella storia con il Gazzettino del Risorgimento e con le biografie del Novecento raccontate da Enrico Ruggeri, da Churchill ad Einstein, solo per fare qualche esempio, nel Falco e il Gabbiano. Sarà poi possibile studiare geografia con le carte geografiche radiofoniche di Federico Taddia e Telmo Pievani e il loro Terra in vista, l'Italia spiegata a mio figlio. La lezione di scienze si arricchirà della serie dedicata all'acqua di Mare Futuro a cura di Chiara Albicocco. Dunque, materiale prezioso a disposizione di chi vuole fare didattica a distanza in maniera originale. È tutto per oggi, un saluto da Maria Piera Ceci.